La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 27 marzo 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E in questa settimana in cui sui media tradizionali non si è fatto altro che parlare di comunicazione per via della cancellazione di Anno Zero e dei vari programmi di informazione politica e quindi della loro successiva sostituzione tramite il programma appena andato in onda giovedì Rai per una notte, in questo sabato invece di occuparci di comunicazione in generale parleremo ovviamente del nostro ambito, quindi parleremo di comunicazione scientifica. Se ben vi ricordate, anche 2 anni fa ce ne eravamo occupati di comunicazione scientifica cercando di analizzare i vari aspetti e cercando di capire se la comunicazione scientifica può essere ancora fatta tramite i mezzi tradizionali oppure può essere fatta meglio tramite il web. Ma comunque di questi argomenti e soprattutto del rapporto tra il cosiddetto PEST, il Public Engagement in Science and Technology, e il PUS, il Public Understanding of Science, ne parleremo col professor Nico Pitrelli, vice direttore del Master di Comunicazione della Scienza di Trieste. Buongiorno professor Pitrelli. Buongiorno a tutti e a tutti a te e ai radioascoltatori. Professor Pitrelli, all'inizio noi abbiamo quelle 100 parole per introdurre la trasmissione e quindi in 100 parole io le chiedo di essere conciso e stretto e di cercare di spiegarci che cos'è la comunicazione scientifica proprio in queste 100 parole. La comunicazione della scienza in 100 parole è quel complesso di processi, indica tutti quei processi che sono rivolti a far circolare la conoscenza sul mondo in forme diverse, sia nelle forme a cui siamo più abituati come i mass media, sia nelle forme più limitate come in termini di numero, come i musei della scienza, come l'editoria scientifica per le scuole e tanti altri contesti. Quindi tutto quel complesso di processi in cui la scienza viene in qualche maniera messa in vari formati, in vari contesti per vari utilizzi. Benissimo professor Pitrelli, a questo punto ci andiamo a ascoltare un piccolo pezzo musicale. Do un attimo un'anteprima di che cosa sarà la nostra trasmissione. Più che trattare degli argomenti specifici, sarà una specie di chiacchierata, cioè una chiacchierata sulla comunicazione scientifica e un'analisi dei vari aspetti della comunicazione scientifica per come viene raccontata e per come secondo noi dovrebbe essere fatta. E quindi a questo punto ci andiamo ad ascoltare musica, poi torniamo in studio e poi ritorneremo all'interno di Caccia al Fotone. Thank you. E bentornati in studio, cari radioascoltatori. Quindi do il benvenuto a tutti voi che state ascoltando la trasmissione tramite lo streaming di Radio Città Fujiko e tramite il sito di Cacciafotone, che ricordo è www.cacciafotone.it. Siamo al telefono col professor Nico Pitrelli, vice direttore del Master di Comunicazione della Scienza di Trieste, e con lui stiamo provando a parlare di comunicazione scientifica, cioè stiamo provando a parlare di quello che facciamo qui a Cacciafotone ogni sabato. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato giusto 2 anni fa di comunicazione della scienza e abbiamo dato all'inizio della trasmissione una specie di cappello, quel classico cappello che noi diamo nelle 100 parole iniziali. Quindi, professor Pitrelli, cominciamo a parlare di comunicazione della scienza tenendo bene a mente di non confonderla con quella che comunemente viene detta divulgazione scientifica, che è una delle definizioni più brutte che viene data alla comunicazione della scienza, perché parte dal principio che la gente verso cui si comunica sia un sacco vuoto, quindi il volgo divulgazione. E quindi a questo punto partiamo con la trasmissione e le lascio finalmente la parola. Ma sì, effettivamente l'idea che la comunicazione della scienza coincida con la divulgazione scientifica è un'idea molto forte, ancora molto predominante, per vari motivi su cui magari, se poi hai voglia, ci possiamo anche un po' dilungare. Sta di fatto che la comunicazione della scienza è ben più di un genere, come può essere la divulgazione. L'attività di trasferimento della conoscenza, con cui si può anche ridefinire la divulgazione, è uno dei tanti processi di cui parlavamo anche all'inizio, in cui si cerca di mettere in contatto sistemi sociali, sistemi di linguaggi diversi fra di loro. Però ce ne sono molte altre. La divulgazione, poi, come hai ricordato forse anche un po' tu, richiama ad un concetto di degradazione, di semplificazione. In Francia non a caso viene chiamata vulgarisation, ne denota quasi un significato spregiativo. Ora, sul perché ci sia questa coincidenza fra comunicazione e divulgazione ci potremmo spendere molto tempo, direi solo che richiama in qualche misura l'idea che la scienza è un qualcosa di oggettivo, qualcosa di neutro, qualcosa di indipendente dai contesti in cui viene prodotta, e qualcosa di speciale rispetto ad altre forme di conoscenza. Per cui qualunque forma, attività di comunicazione che preveda il riferirsi a dei concetti e alle teorie scientifiche non può che essere inevitabilmente un qualcosa che riduce la certezza, un qualcosa che mette in discussione l'obiettività che non viene contestata alla scienza. E quindi, in qualche modo, questa forma, questo genere della comunicazione scientifica fatta coincidere con la divulgazione tradisce l'idea, un'idea filosofica forte, un'idea che esiste un mondo al di fuori di noi che può essere descritto con gli strumenti della scienza, con il metodo della scienza, è un mondo che non ammette incertezze. Quindi da questo punto di vista sembrerebbe che l'unica attività possibile quando dobbiamo cercare di comunicare la scienza non possa che essere quella di divulgarla. Professor Pitrelli, a questo punto lei ha dato un cappello alla trasmissione, quindi a questo punto cerchiamo di entrare dentro la trasmissione, quindi dentro i concetti della comunicazione scientifica. Qualche volta ne abbiamo parlato e qualche volta l'abbiamo anche analizzato. Dal punto di vista comunicativo esistono 2 stili comunicativi, il PUS, il Public Understanding of Science, e il cosiddetto PEST, il Public Engagement in Science and Technology. Ora, quando uno dei due è entrato in crisi e quando uno dei due ha rimpiazzato l'altro, perché in realtà, diciamo un po' in ritardo, la comunicazione della scienza è arrivata finalmente al concetto che il pubblico non è un sacco vuoto, ma bisogna farlo discutere e bisogna fare in modo che possa partecipare ai temi scientifici. fa, con il termine PUS, Public Understanding of Science, si intende sia un movimento di idee, di azione, di attività a trasferire la scienza a beneficio della popolazione, sia allo stesso tempo si intende un insieme di ricerche che vogliono indagare qual è la relazione fra scienza e pubblico, cioè come il pubblico di non esperti comprende la scienza, come la utilizza e quale relazione instaura con la conoscenza scientifica. È più conosciuto il PUS nella sua accezione pratica, pragmatica, ovvero per tutte quelle azioni che vengono fatte per la promozione della conoscenza scientifica e per l'aumento dell'alfabetizzazione scientifica. Questo movimento è nato in una forma moderna a partire dalla metà degli anni '80 in Inghilterra, però ha avuto una riesplosione e un interesse forte che si è poi diffuso in tutto il mondo a partire dalla Inghilterra in quegli anni governata da Margaret Thatcher, e poi ha avuto anche questa etichetta, nonché il movimento adesso legato, un certo successo in varie parti del mondo, compresa anche l'Italia. L'idea che c'è sotto questo movimento è un'idea che rispecchia l'impostazione che dicevamo prima della comunicazione vista come divulgazione. È un'idea che fa coincidere la comunicazione con il trasferimento della conoscenza, è un'idea che considera il pubblico di non esperti come un pubblico sostanzialmente ignorante e passivo rispetto alla scienza. La logica che c'è sotto il PUS è che tanto più io riuscirò a informare correttamente le persone su questioni, sui fatti, sui concetti della scienza, tanto meno avranno luogo conflitti fra scienza e società. È un'idea paternalistica da un punto di vista della teoria sociale, è un'idea abbastanza naif dal punto di vista della comunicazione, perché si richiama a dei modelli di comunicazione pubblica lineari che erano stati già abbondantemente superati negli anni '80. Nonostante ciò, è un'idea, è un modello che trova una sua credibilità, soprattutto in ambito politico, però rimane in qualche maniera, è tuttora persistente, in tante attività di comunicazione della scienza. E a un certo punto, però, visto alcuni fallimenti di questo modello nella risoluzione dei conflitti fra ricercatori e cittadini, in particolare il caso della mucca pazza in Inghilterra, in particolare il caso degli organismi geneticamente modificati e casi di questo tipo che sono ancora oggi nell'agenda dei conflitti fra scienza e società, ecco, dicevo, il fallimento di questo modello in questi casi ha fatto nascere l'esigenza di ripensare alcuni delle ipotesi su cui era stato impostato il Public Understanding of Science, e qualcuno, sempre dal mondo anglosassone, bisognasse passare a dei modelli in cui bisognava privilegiare il coinvolgimento con il pubblico dei non esperti, con i cittadini, e quindi si passava a un modello in cui ci si iniziava a rendere conto che non bastava un trasferimento delle conoscenze, dei fatti, delle teorie della scienza per prendere le decisioni migliori. Si è iniziato soprattutto a passare dall'idea che dalla conoscenza come elemento della soluzione dei conflitti fra scienza e società avesse invece una maggiore valore, un maggiore impatto, una maggiore efficacia la fiducia fra scienziati e cittadini. Ecco, in breve, questo è un pochino per grossi capi il passaggio che c'è stato fra il modello PUS e il modello PEST. Professor Pitrelli, lo diceva un po' lei prima, cioè il PUS è uno stile comunicativo del passato che è stato sostituito a pie pari direttamente dalla PEST negli ultimi anni. La mia domanda però è questa: il PEST è sempre corretto per comunicare la scienza? Cioè, per esempio, se devo comunicare un argomento di salute o di medicina, è molto più facile utilizzare il PEST perché è molto più facile coinvolgere il pubblico. Ma se devo comunicare, per esempio, il bosone di Higgs o un argomento di fisica delle particelle, come faccio a utilizzare uno stile comunicativo come il PEST che coinvolge il pubblico? Cioè, detto in parole povere, a chi interessa che venga trovato il bosone di Higgs se non a un ricercatore che lavora all'interno del CERN? Questa domanda è una domanda che si pone l'operatore della comunicazione, ed è una domanda che non ha una risposta univoca, però bisogna sottolineare che è una domanda che nasce da un altro tipo di esigenze rispetto a quelle per cui sono nati questi due movimenti o queste due etichette. Dal punto di vista dell'operatore della comunicazione, ovviamente non esistono degli obiettivi univoci definiti una volta per tutte, né esistono dei contesti e dei modelli che si possono considerare universali. Per risponderti, ci sono alcuni casi in cui un trasferimento più, diciamo così, unidirezionale della conoscenza risponde maggiormente all'esigenza del pubblico. Ci sono altri casi che una necessità di mettere a confronto più saperi e quindi adottare un approccio che favorisca lo scambio, il dialogo, è la via da seguire, e non esiste una che vale in assoluto o una che è meglio dell'altra, ma questo non è un fatto specifico della comunicazione della scienza, è un fatto che riguarda tutte le forme di comunicazione mediatiche, mass mediatiche e non, ovvero banalmente il fatto che ogni pubblico ha bisogni, necessità e usi della conoscenza o dell'informazione che viene loro trasferito, e questa informazione può essere trasferita all'interno di vincoli spazio-temporali, e quindi l'efficacia della comunicazione va misurata e va valutata tenendo conto di queste specifiche condizioni, di queste modalità che valgono in generale per il sistema della comunicazione e in particolare per la comunicazione della scienza. Quindi la risposta è che non esiste un modello universale o universalmente valido della comunicazione scientifica, né si può pensare che ci sia un passaggio evolutivo e men che meno teleologico fra un modello del PUS, diciamo così, o altri l'hanno chiamato del deficit, della divulgazione, dell'alfabetizzazione, che poi diventa per un miglioramento lineare il PES. Professor Pitrelli, a questo punto la interrompo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi continuiamo questa nostra chiacchierata sulla comunicazione della scienza e su tutto quello che c'è attorno alla comunicazione. Great idea to rise. comic show that I can make it all. I'm the thing I have to do is go along. Days will be much longer, thoughts will be much older. Throw away all the money, throw it away. Well, can you feel it now? Well, can you choose it now? Well, can you feel it now? Well, can you choose it now? Wave me goodbye. And love, because I don't know how to keep my love. Bentornati cari radioascoltori, per coloro che stanno ascoltando questa trasmissione sia dal sito di Radio Città Fucico che www.radiocittafucico.it, sia per coloro che lo stanno ascoltando dal sito di Cacciafotone che è www.cacciafotone.it. In questa puntata stiamo provando a parlare di comunicazione della scienza e ne stiamo parlando col professor Nico Pitrelli, vice direttore del Master di Comunicazione della Scienza di Trieste. Professor Pitrelli, la prima domanda che le voglio fare all'inizio di questa seconda parte è un po' questa. Negli ultimi anni sono apparse una nuova quantità di serie a carattere scientifico che in qualche modo hanno introdotto temi scientifici nell'immaginario collettivo. Mi viene in mente la più famosa, The Big Bang Theory, in cui ci sono molti temi fisici dentro la serie, o Numbers, in cui il protagonista è proprio un matematico, oppure CSI. E tutto questo è stato salutato dalla comunicazione della scienza come una specie di vittoria, quindi alcuni argomenti scientifici finalmente vanno in televisione. Eppure non è vero che la conoscenza su determinati argomenti, sulla fisica, sulla matematica, sulla medicina, sulla chimica, sia aumentata nel pubblico. E quindi quando possiamo dire che uno stile comunicativo, un mezzo comunicativo sta avendo successo per comunicare alcuni argomenti verso il pubblico? Ma la questione degli effetti dei media sul pubblico è una questione molto difficile, molto dibattuta fin da quando sono stati inventati i mass media, ovvero dagli anni 20 del Novecento, e credo che ci siano più di una trentina di teorie a disposizione su e come e quando c'è un impatto dei contenuti veicolati sui media e i comportamenti del pubblico. Ecco, nessuno è arrivato a una conclusione definitiva, tranne che sono tutti d'accordo nel dire che non c'è un rapporto di causalità, un rapporto di causa-effetto, un rapporto lineare fra l'esposizione ai media e i comportamenti. Questo vale in generale e vale ancora di più per la scienza, per la tecnologia, per cioè, ambiti che sembrerebbero, come dire, essere più quantificabili anche in una presunta possibilità di aumento di conoscenza. E dell'approccio poi di quale, cioè la domanda di su che cosa suscita, quale impatto hanno CSI, Numbers, Big Bang Theory, molte volte viene affrontata questa domanda cercando di capire se per esempio le persone sanno più o meno di scienza dopo aver visto questi film, oppure se all'interno di questi film la scienza viene riportata correttamente o viene distorta. Ecco, questo è un tipo di approccio che attento si dice all'analisi dei testi. Anche da questo punto di vista la ricerca in questo campo è da molto tempo molto più attenta alle cosiddette forme di consumo, ovvero forse più interessante chiedersi che uso uno spettatore o una spettatrice fa di quel tipo di immagini, come si identifica, per quale motivo decide di seguire una fiction di quel tipo. Questo, diciamo, è un modo per anche avvicinarci a comprendere come gli effetti dei media sono molto variabili, e come ce ne possono essere alcuni a breve termine, altri a medio termine, altri a lungo termine, soprattutto quelli a lungo termine sono inestricabili con fattori culturali, con fattori educativi, con fattori sociali, con fattori individuali, con i percorsi singoli, con i percorsi di comunità. Professor Bitrelli, oramai siamo arrivati in fine di Cacciafotone, quindi le farò l'ultima domanda, o almeno l'ultima riflessione con cui concluderemo tutta questa trasmissione che è stata dedicata alla comunicazione della scienza. In realtà questa mia, più che essere una domanda, è una riflessione alla quale vorrei un suo commento, perché se andiamo per esempio nel campo della genetica, io mi ricordo benissimo che si diceva: quando mapperemo tutto il DNA saranno debellate tutte le malattie. Questo ovviamente non poteva essere vero, eppure è stato comunicato così, è stata comunicata la speranza, quindi il pubblico si è fidato. Quando è stato finalmente mappato il DNA, adesso si comincia a giocare, quindi adesso si comincia a vedere come si possono fare i farmaci genetici. Non è che la scienza è fin troppo complessa per essere comunicata, quindi i comunicatori in qualche modo usano l'astuzia di metterci dentro la speranza e la certezza, e in qualche modo, se la speranza viene disattesa, il pubblico ovviamente si allontana, e quindi in qualche modo abbiamo fatto un cattivo servizio alla scienza. Cioè, non è uno sbaglio comunicativo questo, non introdurre il dubbio nel comunicare la scienza? Ecco, no, ma io non penso che la scienza sia oggi più complessa, e il punto è, come un po' abbiamo detto anche prima, è capire quali sono gli obiettivi della comunicazione, e quindi adattare la comunicazione un po' anche a questi obiettivi. Certamente, se l'obiettivo unico, univoco, è quello di spiegare la meccanica quantistica a chi non ha fatto un corso di 4 anni di fisica all'università, allora questo sarà necessariamente fallimentare, perché non è un caso che uno debba studiare 4 anni per comprendere la meccanica quantistica. E il punto è che questo probabilmente è un obiettivo sbagliato dal punto di vista della comunicazione al pubblico. Il pubblico, da un punto di vista della comunicazione, non solo nella scienza, ha diversi bisogni: ha il bisogno di essere informato, ha il bisogno di scegliere fra diverse opzioni, ha bisogno di divertirsi, ha bisogno di fare delle scelte personali o anche collettive. E ha bisogno di questo, per questo si rivolge ai media, per questo legge un giornale, per questo. E quindi la risposta che io ti do non è che nella comunicazione bisogna pensare, se io parlo della supersimmetria, di spiegare in poche parole la supersimmetria, è capire il tipo di esigenza che può avere un pubblico nel ricevere informazioni o nel ricevere comunicazione attorno a quell'argomento, e sarà nella mia capacità professionale capire come selezionare all'interno dell'universo di informazioni, di concetti, di teorie che ci sono a disposizione, quella che può essere rilevante per stabilire un contatto comunicativo con il pubblico che in qualche modo presumo o so che possa avere un certo tipo di bisogno. E quindi la risposta è che il mestiere della comunicazione della scienza è più difficile in un certo senso che semplicemente divulgarla, perché è per i motivi che ho cercato di esprimere. Professor Bitrelli, si conclude così Cacciafotone di questa settimana. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti.